70. Tagliatelle verdi. Si usano per minestra asciutta e sono più leggere e più digeribili di quelle intrise di tutte uova. Per dar loro il color verde, cuocete spinaci lessi, strizzateli bene e tritateli con la lunetta. Con due uova e un pugno di questi spinaci, intridete sulla spianatoia quanta farina potete per ottenere una pasta ben soda che lavorerete molto con le mani. Poi col matterello tirate la sfoglia sottile e quando d'accenno ad appiccicarsi a motivo dell'erba che produce viscosità, spruzzatela leggermente di farina. Avvolgete la sfoglia in un canovaccio e quando sarà asciutta tagliatela alquanto più larga dei taglierini da brodo, avvertendo che il bello di tali paste è la loro lunghezza, il che indica l'abilità di chi le fece. Appena alzato il bollore, levatele asciutte e conditele come gli spaghetti alla rustica numero 104, oppure come i maccheroni e le tagliatelle dei numeri 87 e 69, o semplicemente con cacio e burro. Questa dose potrà bastare per 4 o 5 persone.